Dobbiamo riconoscere i nostri limiti nel comprendere pienamente chi ha passato o sta passando un'esperienza che noi per primi non abbiamo mai conosciuta. Nessun uomo può comprendere cosa significa partorire, come nessun abitante dell'Africa che non è mai uscito dalla sua tribù può comprendere cosa significhi vivere nell'Antartide. Si può immaginare, supporre, ma solo un'esperienza vissuta in prima persona può renderci idonei a comprendere chi sta attraversando o ha attraversato la stessa situazione. Il più delle volte noi ragioniamo, comprendiamo, consigliamo, proprio sulla base della nostra inesperienza in una data circostanza, e per questo siamo limitati. Perché, lo ripeto, per poter avere un giudizio completo, una giusta comprensione del contesto, dovremmo aver avuto la possibilità di fare ogni sorta di esperienza. La nostra comprensione è, dunque, condizionata dalla nostra esperienza che forma la cultura di ognuno di noi. La cultura forma l'etica, per cui la nostra morale e i nostri giudizi sono confinati a ciò che abbiamo vissuto. Questa lealtà si ripercuote, pari pari, anche nella comprensione della parola di Dio. L'ambiente in cui si svolgono gli avvenimenti biblici è il vicino Oriente, in una cultura semitica quindi, e, più precisamente, appartenente al popolo di Israele, e, quasi impossibile per un occidentale, comprendere una cultura orientale, e, ancora più difficile, comprenderne il parlare. L'errore comune di chi si accosta alla scrittura è interpretare il linguaggio della parola di Dio con la propria cultura. Proprio per questo si commettono i più grandi errori. Nel lessico religioso che ho appreso crescendo, un'espressione fondamentale che spesso sento nell'ambito della preghiera è «Dio mi ha esaudito». Credo che nessuno di noi abbia il diritto di interferire nella comunione di un'anima con il suo creatore, ma credo pure che un'idea sbagliata in merito alla comunione con Dio possa recare danni incalcolabili. Per questo è opportuno fare alcune riflessioni in merito all'esaudimento che Dio concede a chi prega. Essere esauditi da Dio fa parte della bella esperienza che, a volte, un figlio di Dio fa. È vero che le preghiere non vengono sempre esaudite, diversamente Gesù nel Getsemani non avrebbe pregato il Padre lasciando aperta la possibilità di non essere esaudito, come del resto è avvenuto. Ma è anche vero che alcune volte ci accade di ottenere ciò che chiediamo. L'Eterno Dio stesso disse a Salomone: «Io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatto davanti a me». 1 Re 9:3. Affermare quindi di essere esauditi corrisponde al vero. Ma, a mio avviso, la quasi totalità delle volte rimane vero il contenuto delle parole, ma non ciò che si vuole esprimere con tali parole. In queste brevi riflessioni mi prendo l'incarico di esaminare questo delicato aspetto. Che cosa vogliamo intendere quando affermiamo «Dio mi ha esaudito»? La risposta più ovvia è che «Io ho pregato e Dio mi ha dato ciò che io ho chiesto». Se io non avessi chiesto quella cosa, Dio non me l'avrebbe data. E per questo sta scritto: chiedete e riceverete. Tutto ciò è vero, eppure vi è un aspetto che bisogna sottolineare. Per comprendere la preghiera e il suo esaudimento, bisogna pensare al rapporto esistente tra la sovranità di Dio, come re, e la sua creatura. Per comprendere tale rapporto, lo si deve vedere e sperimentare in prima persona nella propria vita. Inoltre, poiché un rapporto simile diventa comprensibile solo se calato nell'ottica di un regno, di un rapporto quindi fra un re sovrano e i propri sudditi, a nostra volta siamo costretti a calarci nella realtà del popolo di Israele, quando aveva un re. Il profeta Samuele, eleggendo il primo re, disse al popolo le seguenti parole: «Questi saranno i diritti del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e farli suoi cavalieri, e perché corrino davanti ai suoi carri, per farli capitani di migliaia e capitani di cinquantine, per metterli ad arare i suoi campi, a mietere la sua messe, a fabbricare le sue armi da guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farne profumiere, cuosce e fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti, i migliori che avete, per darli ai suoi servi. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servi. Prenderà i vostri servi, le vostre serve, i vostri giovani migliori e i vostri asini per usarli nei suoi lavori. Prenderà anche la decima delle vostre greggi, e voi sarete suoi schiavi. 1 Samuele 8, 11-17. I diritti del re sul popolo erano pressoché totali. Poteva disporre di lui come voleva. Il popolo a sua volta si presentava davanti al re per chiedere giustizia o misericordia, e il re, dopo aver valutato, decideva cosa fare. A volte esaudiva, altre volte no. Il re non doveva rendere conto a nessuno delle sue decisioni. È in questa ottica che dobbiamo ritenere il nostro rapporto di preghiera con Dio. Quando chiediamo, noi non riceviamo perché abbiamo chiesto, ma otteniamo come atto di misericordia di Dio. Per comprendere meglio questo aspetto, facciamo l'esempio di 10 condannati che chiedono grazia. Uno solo riceve la grazia, gli altri 9 sono condannati. Il re non è obbligato, né si sente in obbligo di esaudirli in conseguenza alla loro richiesta di grazia. Semplicemente, sulla base di una propria libera decisione ed indipendente dalla richiesta di grazia, egli delibera che uno solo ottenga la revoca alla condanna. E forse è stato esaudito solo uno dei richiedenti, perché solo lui ha chiesto la grazia. Ma la grazia non l'avevano forse chiesta tutti, eppure uno solo l'ha avuta. Perché? Il condannato non ha ricevuto la grazia perché l'ha chiesta, ma l'ha ricevuta perché il re ha deciso di darla solo a lui. Certo, se non la chiedeva non la riceveva, ma il re non si è sentito in obbligo di esaudirlo, perché l'aveva chiesto l'ha esaudito invece, perché ha deciso che solo lui non fosse condannato. È stata la misericordia del re ad esaudire il condannato, per cui, condannando gli altri, il re non ha commesso nessun torto. Poteva commettere un torto se egli era in obbligo di salvarli tutti. Ma, poiché il re non deve rendere conto delle sue decisioni a nessuno, poiché è in suo potere esaudire alcuni ed altri no, la sua misericordia è caduta sopra ad un solo condannato. In questo senso Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Romani 9:18. Ecco perché Dio, nella sua sovranità, chiede a certi figli una vita più estenuante che ad altri. Davide, il figlio di Isai, ebbe una vita piena di travagli e sofferenze, Salomone, suo figlio, ebbe una vita pacifica. Ad alcuni suoi fedeli servitori Dio prende figli, onore, salute, ad altri concede ogni cosa. Nessun torto, allora, se non otteniamo ciò che non ci è dovuto. Con questa premessa, possiamo comprendere il reale rapporto che, nella preghiera, abbiamo con il nostro grande Dio e Salvatore. Noi chiediamo al nostro Dio di liberarci da certe situazioni. Milioni di figli di Dio pregano di non passare certe esperienze. Eppure, alcuni ottengono ciò che chiedono, altri no. Chi è esaudito deve comprendere che ha ottenuto, non sulla base della propria richiesta. Per quanto ovviamente chiedere resta sempre la condizione per ottenere le risposte, ma non la motivazione, perché Dio ha deciso di dare ciò che gli è stato richiesto sulla base della sua misericordia e bontà. Sotto quest'ottica, sono veramente assurde, pazzesche, inaudite, insensate le reazioni di alcuni figli di Dio per la mancanza di esaudimento alle preghiere, così come altrettanto assurde e anche presuntuose sono le insinuazioni di taluni figli di Dio che accusano un fratello, inesaudito nelle sue preghiere, di aver mancato di fede nella preghiera o nella certezza che Dio mantenga sempre le sue promesse o di non aver pregato bene o abbastanza. Questo atteggiamento parte da un presupposto sbagliato, una mancata ed errata posizione nei confronti di Dio. Essendo coscienti che Dio non è obbligato di dare ciò che chiediamo, che ha tutti i diritti di non esaudirci, allora la nostra preghiera non risulterà più un assalto pretenzioso al trono di Dio, ma una richiesta umiliata e umiliante, aspettando incerti l'esaudimento. Se questo avviene, è tutto un di più. Se non riceviamo ciò che abbiamo chiesto, fa parte delle sue risposte negative. Nessuna pretesa, nessuna offesa. Solo gratitudine, nonostante tutto. E allora, cosa dire dell'ardita affermazione di Giovanni? Questa è la sicurezza che abbiamo. Davanti a lui, se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. 1 Giovanni 5, 14-15. Non vi è implicita la sicurezza dell'esaudimento nella preghiera? Sì. Ma Giovanni afferma che possiamo essere sicuri di essere esauditi da Dio quando chiediamo qualcosa secondo la sua volontà. È come dire che il condannato a morte è sicuro di non essere giustiziato, perché chiede la grazia, sapendo già da prima di chiedere che il re aveva già. Comunque, ed indipendentemente dalla richiesta del proprio suddito, la volontà di concedere la grazia. In definitiva, il condannato chiede non qualcosa di suo, ma chiede ciò che il re aveva deciso precedentemente. Una richiesta, a dire il vero, che ha più del formale che di vera intenzione del richiedente. Una richiesta che si è adeguata completamente alla volontà di chi può esaudire, con il solo proposito di fare la volontà di quest'ultimo. Al richiedente non interessa più essere esaudito. Non considera più le sue necessità, le sue aspirazioni, i suoi desideri. Al condannato non interessa più vivere o morire, ma il suo unico scopo, ormai, è quello di compiere la volontà del re. E per questo chiede ciò che vorrebbe il suo re. Ecco perché, più che chiedere, è indispensabile conoscere la volontà del nostro Signore. Gesù disse: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto». Giovanni 15, 7. In altre parole, se siete ripieni della mia volontà, domandate pure ciò che volete e sarete esauditi. Infatti Salomone fu esaudito perché la sua richiesta era conforme al volere dell'Eterno. Sono riflessioni che umiliano potentemente il nostro orgoglio. Quando andiamo in preghiera davanti a Dio per chiedere cosa abbiamo nel cuore, che atteggiamento abbiamo, chiediamo per ottenere o per compiere la volontà di Dio. La nostra richiesta è tale per cui non siamo né offesi né amareggiati se non otteniamo risposta, oppure pensiamo di avere dei diritti di ottenere. Molto difficile non pensare ai nostri presunti diritti in una società in cui si insegna soprattutto a far valere i propri diritti. E il diritto ci fa offendere e arrabbiare se non viene esaudito, e questo anche con Dio. Se sono cosciente di non avere diritti, di non essere graziabile, che Dio non è obbligato a rispondermi, che Egli è l'unico detentore di diritto e che solo Lui ha tutti i diritti di esprimere pienamente e liberamente la sua volontà, allora quando sono esaudito, sperimento la misericordia di Dio, il mio cuore loda doppiamente, ho una infinita riconoscenza, realizzo di essere graziato. So cosa significa, nella pratica, grazia. Come dice l'autore della lettera agli Ebrei, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ebrei 4 e 16. Il trono di Dio è un trono di grazia, non di doveri. Dobbiamo riconoscere umilmente il nostro diritto di non essere esauditi, perché, finché nel nostro cuore non alberga questo diritto, non comprenderemo cosa significhi essere esauditi per un atto di grazia, né, tantomeno, aspettare che questa grazia intervenga al momento che Dio ritiene opportuno. Questo è lo spirito di preghiera, questo deve essere il nostro atteggiamento nei confronti di Dio. Ecco come gli occhi dei servi sono rivolti alla mano dei loro padroni e gli occhi della serva alla mano della sua padrona. Così i nostri occhi sono rivolti all'Eterno, Dio nostro, finché Egli abbia pietà di noi. Salmo 123, 2. Così e solo così riceveremo le benedizioni di una vita vissuta sotto lo sguardo della misericordia di Dio, una vita abbandonata totalmente nelle mani piene di umanità e comprensione di Dio, una vita che sperimenta la pietà con grazia gioiosa di essere esaudito. Dicembre 2003. Ellero,